Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 11. You say you want a revelation. Da secoli, ogni domenica alle ore 12, milioni di persone fanno in modo di ascoltare le parole del pontefice e recitare con lui la preghiera dell'Angelus. Chi ne ha la possibilità si reca in piazza San Pietro. Gli altri seguono la cerimonia per radio o per televisione. Le radio che trasmettono in AM raggiungono distanze considerevoli e arrivano nei posti più sperduti. Quelle che trasmettono in FM sono ormai onnipresenti in ogni luogo abitato. La televisione via satellite unisce il globo annullando tempo e spazio, e internet chiude il cerchio. Quella particolare domenica, il mondo intero era in attesa per la prima uscita pubblica del pontefice dopo la rivelazione. Molti si erano chiesti perché il Papa non avesse ancora parlato. Le polemiche non mancavano. Non si poteva attendere oltre. Il pontefice si affacciò alla finestra del suo studio. La piazza era stipata all'inverosimile, la folla assiepata ovunque. A differenza delle volte precedenti, non ci furono applausi, né urla di giubilo o grida che invocavano il suo nome. Tacque per un interminabile minuto scrutando quel mare umano silenzioso. Cari fratelli e sorelle, celebriamo insieme la nuova rivelazione. Furono le uniche parole che pronunciò al microfono. Sollevò le braccia al cielo e chiuse gli occhi. Drago spuntò le sue spalle, lo cinse con un braccio mentre azionava il Devil. «Vai pure, vecchio mio!» gli sussurrò nell'orecchio. «Benvenuti alla festa, ragazzi!» disse poi nel microfono, sogghignando alla piazza gremita. Le telecamere ritrasmettevano in ogni angolo del globo il suo faccione sorridente. Il brillio che aveva negli occhi era riflesso nei miliardi di pupille incollate ai teleschermi. Il meticoloso si era preparato bene per quella sera. «Abbiamo un bel po' di cose da fare, quindi aprite bene le orecchie e ascoltate». La voce di Dio si diffondeva da milioni di radio e televisori. Volava impalpabile tra le case, tra le strade, nei villaggi sperduti, nei grattacieli di Wall Street. Risuonava dalle televisioni sintonizzate su Al Jazeera nel mercato delle piramidi. Usciva sinuosa e gracchiante dalle radioline AM delle bancarelle di cibo cinese nelle strade di Shanghai. Gracidava dalle radio di bordo delle navi mercantili che solcavano gli oceani. L'effetto del Devil era istantaneo. Se qualcuno, magari sintonizzando la radio per ascoltare i risultati delle partite di calcio, avesse incrociato anche per un solo secondo la frequenza con il discorso di Drago, si sarebbe istantaneamente bloccato su quella stazione, congelato nell'ascolto. Chiunque fosse passato davanti a una TV o a una radio sarebbe stato immediatamente goddato, e chi gli si fosse avvicinato per vedere cosa succedeva avrebbe fatto la stessa fine. Accadde così che la rivelazione giunse ovunque. I comandamenti si diffusero alla Casa Bianca come al Cremlino, al NORAD e in numerose altre innominabili sedi militari di ogni nazione. Il linguaggio non era un ostacolo. L'effetto God superava le barriere linguistiche. Il senso delle parole era chiaro anche agli eschimesi. «Da ora si cambia. Da oggi tutto è cambiato. Questo mondo, così com'è, non va. C'è bisogno di un passo avanti e, visto che da soli proprio non ce la fate, faremo a modo mio». Per un istante fu tentato di mettersi le mani chiuse a pugno sui fianchi e protendere in avanti la mascella. Si trattenne per non cominciare a ridere. Non desiderava essere un dio ridanciano. «La prima cosa che cambieremo sarà fermare le maledette guerre, pubbliche e private, grandi e piccole». Si fermò per studiare l'effetto che le sue parole avevano sulla folla. Erano tutti inginocchiati o prostrati, e non c'era dubbio che stessero ascoltando con ogni fibra del loro essere. Il respiro dei presenti si intrecciava, fondendosi in un unico gigantesco animale mistico. Allora, o umanità redenta, il vostro compito a iniziare da domani e per la prossima settimana è semplice. Per prima cosa vi occuperete delle armi. Ciascuno distrugga quante più armi può. Smontatele, passateci sopra con uno schiacciasassi, prendetele a martellate, fondetele negli alti forni, fate come vi pare. Ogni pistola, fucile, cannone, ogni cosa che spara dovrà essere resa inutilizzabile. Alle armi pesanti penseranno gli esperti, quelli che finora le hanno sempre custodite e usate. Loro sanno come si fa. Ci potrebbe essere qualcuno che vorrà impedirvelo, ma ricordate che i numeri e il tempo sono dalla vostra parte. Non usate violenza, usate il cervello. Le armi atomiche non devono essere toccate. A quelle penserò io. La fine del mondo non è ancora arrivata, pensò. Soddisfatto del silenzio che incollava le sue parole alle sinapsi del gregge, continuò. La domenica sarà riservata alla meditazione. Non lavorerete, non pregherete, non toserete le siepi, non dormirete, non vi scaccolerete, ma mediterete su voi stessi, sul valore delle vostre vite, ammesso che lo troviate. Ogni settimana ci ritroveremo qui, per la nostra riunione. Durante la riunione vi darò le mie istruzioni. Domenica prossima voglio qui tutti i capi di Stato. Ci sono delle novità per loro. Mirko era rimasto proprio dietro la finestra dell'Angelus, seduto su una confortevole poltrona di velluto che aveva trascinato lì. Si era messo comodo e ascoltava assorto il discorso. Un guizzo di ispirazione lo scosse a un tratto. «Ehi, socio, ascolta!» esclamò. «La TV! Dobbiamo fare qualcosa per la maledetta succhiacervelli!» Drago lo guardò con un sorriso maligno e scoppiò a ridere. «Cazzo credevi che non ci avessi pensato? Aspetta!» Parlò ancora al microfono, questa volta il tono era più imperioso. «Domani mattina voglio da me la Rai, Mediaset, la CNN, Teletirana, Telekabul. Voglio tutti i rappresentanti e i responsabili delle telecomunicazioni mondiali, tutti. Lo spazio qui non manca.» Si girò verso Mirko strizzandogli l'occhio. «Però sei crudele, con quella sì che gli friggiamo il cervello.» «Eh sì, sono finiti i bei tempi», disse Mirko. «Niente più tette culi?» gli domandò fintamente serio Drago. «No, la succhia cervelli entra nella nuova era. Poveri loro, allora. Sai cosa pensavo? Sarebbe il colmo se un giorno ci ringraziassero. Allora sì che mi sentirei davvero un dio. Correremo questo rischio.» Come gli sembrarono improvvisamente lontani i tempi della resi. Una domanda non detta si faceva strada in Mirko e Drago. Che ne era dei vecchi compagni? Ora che erano arrivati dove volevano, cosa ne avrebbero fatto di quelli che erano stati i loro amici? Presto avrebbero avuto tempo per pensarci, per ora la rivelazione non poteva aspettare. «Bene, per l'ultima volta vi ricordo quello che io voglio da ognuno di voi.» Si appoggiò con le mani al davanzale della finestra, alzandosi un po' sulla punta dei piedi. Sentiva di cavalcare un'onda di energia immensa. Le mani gli formicolavano di eccitazione. «Ripetete dopo di me. Donate a chi non ha.» Seppur pronunciate a bassa voce, le parole che venivano ripetute dalla piazza, dall'intera città e più in là ancora fino alla fine del mondo, gli rimbombarono nella pelle fin dentro le ossa. «Aiutate chi non può.» Drago chiuse gli occhi mentre la folla mormorava. «Amate l'amore, fuggite dall'odio.» Nella sua mente Le parole piovevano sulla rete di esseri umani che, volenti o nolenti, erano tutti collegati tra loro da una ragnatela. Create armonia, create bellezza. La ragnatela era di color argento. Toccava ciascun essere umano in ogni meridiano, in ogni parallelo. Nulla è solo vostro. Ora la folla recitava con lui, amplificando le sue parole. Le voci toccavano le nuvole e ne venivano riflesse con un eco. Non c'è inferno, non c'è paradiso. Già, inferno e paradiso, è tutto qui, davanti a me. Fa a te stesso ciò che fai agli altri. Il sole era alto, la luce riverberava limpida nel cielo di Roma. Aveva scelto un bel giorno per la rivelazione. Socchiuse gli occhi, sentendosi alla fine del suo più bel concerto, e disse: «Siate felici, rendete felici». L'immensità delle voci lo ripeté all'unisono. «Andate ora. Meditate oggi, perché domani sarà il tempo dell'azione. Dio è con voi. Siate felici, rendete felici». Rientrò nella stanza e spense il Devil. Come al mattino la natura si risveglia, così la gente in piazza San Pietro, nelle case, nei bar, nelle strade del mondo, senza fretta iniziò a riprendere conoscenza. Era passata più di un'ora dall'inizio della rivelazione. Mirko si era ormai addormentato sulla poltrona, la testa sorretta dalla mano. Drago lo guardò e decise di lasciarlo riposare, anche lui ne aveva bisogno. Era ora di prendere visione dei suoi nuovi appartamenti. Se li aspettava più grandi, la maggior parte dello spazio dell'alloggio del pontefice era occupato da una sobria cappella dove trovavano posto alcune file di inginocchiatoi in legno. Un crocifisso oscuro e scarno lo fissava in silenzio. Uscì di lì a disagio, sentendosi un usurpatore. Entrò nella stanza dove il pontefice aveva ricevuto dalla TV la rivelazione del Devil. Con sorpresa notò che il televisore era antiquato e panciuto. Almeno è a colori, pensò. Lì accanto c'erano un bagno e una stanzetta per gli ospiti. Si respirava un'aria da collegio. Dopo aver percorso il tappeto rosso del corridoio che circondava la cappella, aprì la porta in fondo al corridoio e si ritrovò in una piccola ma fornita biblioteca. Curiosò velocemente con lo sguardo fra i libri, considerando l'idea di fermarsi a leggere qualcosa. Ma la quantità e la varietà dei volumi avrebbero richiesto troppo tempo per sceglierne uno. Si ripromise di farlo in seguito. Si soffermò dinanzi al quadro che dominava la biblioteca. Ne ignorava l'autore, ma le piccole ali nere di quelli che sembravano cherubini e quelle slanciate corvine dei due angeli musicisti gli ricordarono Diossido e i pipistrelli. Lo fecero sentire a casa. Il resto del quadro era più normale. Non gli diede una seconda occhiata e varcò la porta che dava nello studio. Passò le dita sull'antica scrivania di legno pregiato e si immaginò seduto lì dietro, davanti ai potenti della terra in adorazione. Con un sorrisetto aprì l'ultima porta e trovò un letto che improvvisamente gli sembrò irresistibile. Si distese, incrociò le braccia dietro la testa e, chiudendo gli occhi, si rese conto che aveva bisogno di dormire per affrontare in forze i giorni seguenti. «Mirko, aspettami che arrivo». E intanto il mondo meditava.